C'erano una volta un bambino e un cavaliere dall'armatura scintillante. Iron Man! Che partirono per un viaggio nell'iperspazio. E all'improvviso il cielo si illuminò con i fuochi d'artificio sul castello incantato. Ma non ha senso, tesoro. Sì, mamma, a Disneyland Paris tutto è possibile. A Disneyland Paris la magia diventa realtà. Prenota il tuo soggiorno su disneylandparis.it. Modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Stamattina Telegram si è aggiornato alla versione 3.4.8 e mi informa anche, perché giustamente, come da protocollo e insomma anche da buon uso delle applicazioni, mi dice anche che cosa è successo. Animazioni nelle reazioni, perché voi sapete che adesso quando una persona scrive una riga, tu puoi mettere il pollice sulla singola riga della chat. Prima era statica, adesso ovviamente c'è l'animazione. Aggiunto il supporto per il layout snap di Windows 11, cosa che non sapremo mai, perché Windows 11 non è per i comuni mortali. Praticamente il sistema operativo che è più razzista della faccia della terra. Praticamente io su 6 computer che ho a disposizione nessuno è in grado di poter installare Windows 11. Poi magari ne parleremo in altre accurate sedi. E risoluzione dei problemi e due tazze di miso, anzi risoluzione dei problemi e due tazze di zuppa di miso. Ma che cazzo ordi? Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta 1,5 metri, no. Buongiorno. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, se vede, e noi siamo arrivati alla soluzione. Stiamo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo, belli di casa di Runtime Radio, grazie di essere qui con noi anche questa mattina e grazie di essere ancora vivi tutti, anche io ringrazio di essere ancora vivo. È come quelli che prima del pasto ringraziano il Signore per il pasto, però mentre che il pasto più o meno, insomma, dipende anche da te, essere vivi è un surplus del quale non sappiamo, insomma, fin quando questa cosa avverrà. E con questo ottimismo quasi un po' crepuscolare vi do appunto il benvenuto qui su rantemeridio.it e do anche il benvenuto a quelli che intanto si sono per ora palesati, ossia uno sbadiglio di Walter Sbano, un buongiornissimo di Davide di J. Joker, un ciao con una Y, fa molto ragazzino bimbo minchia, non so perché, però magari non è, però magari è una cosa figa, di Leo Vargion, e un buongiorno anche di Michela De Paola, che dice che i gatti si menano di brutto e tu rimenali naturalmente. Prima di iniziare la trasmissione io direi che sarebbe opportuno fare un po' un attimo un recap di Radio Cazzi Nostri, che insomma è sempre fondamentale, perché come sapete era esploso il computer principale con il quale noi facevamo le dirette qui dallo studio principale. Questo non ha impedito a Runtime Radio di andare avanti sia con la programmazione normale sia con la pubblicazione dei podcast, che ovviamente anche con le altre live, anche se alcuni podcast sono stati pubblicati in ritardo perché ovviamente erano dipendevano insomma qui da noi, dallo studio centrale, chiamiamolo così, e poi sono uscite successivamente. Quindi approfitto ancora una volta, anche se già l'ho fatto, ma lo rifaccio di nuovo volentieri, approfitto insomma Michele Schuren per la grande generosità ancora una volta insomma dimostrata, perché mi ha aiutato insomma a sistemare la questione e adesso insomma sembra essere tutto tornato abbastanza alla normalità e quindi in teoria come avete visto insomma già da lunedì tutte le trasmissioni sono tornate alla normalità. Abbiamo fatto anche martedì, abbiamo fatto anche la trasmissione di Michela, io la sento un po' alta sta basetta insomma, non so, però comunque e praticamente sì, abbiamo fatto la trasmissione di Michele, abbiamo fatto questa sera insomma in teoria dovrebbe tornare, no in teoria questa sera torna quando eravamo futuro. Purtroppo ci dispiace per il fatto che noi poi alla fine con questi piccoli intoppi siamo stati un po' meno attendibili diciamo nelle comunicazioni che abbiamo fatto, però ragazzi ci sta, no, per quello che è il nostro lavoro, per questo tipo di impegno che abbiamo della radio, insomma se fossimo dei professionisti e fossimo pagati magari sarebbe meno comprensibile, ma adesso insomma ci può stare, no? Ci può stare, che dire, ci sta. Sì, io penso di sì. Volevo dire anche un'altra cosa, ma ovviamente me la sono dimenticata. Comunque, questo è tutto un po' tornato alla normalità. Tra l'altro abbiamo approfittato per riconfigurare un po' qui lo studio. Con una setup che secondo me è migliore rispetto a prima, che stavamo un po' strettino. Però c'è un problema tecnico che ovviamente Michela ha di fronte tutto il banco regia e quindi quando lei parla vede me che mi muovo, spingo pulsanti, alzo cursori e questa cosa ovviamente un po' la distrae. E vabbè ragazzi, io a questo punto, dato che insomma ci siamo, lancio il primo brano, che è il brano quello insomma che non dovremmo lanciare come tutti i giorni, come tutte le volte, come su tutti i podcast, e che poi ovviamente verrà eliminato appunto la versione podcast, che forse mi introduce quello che è il tema della giornata in qualche maniera, ma anche no. Se per caso un giorno o l'altro ti trovassi a girare intorno, e niente raga, a me Antonella Ruggero mi piace, mi è sempre piaciuta questa voce particolare, incredibile, questa canzone con i Timoria, c'è tutto un mondo intorno e in effetti è così, c'è tutto un mondo intorno a noi, un mondo che di cui ovviamente ogni tanto noi facciamo finta semplicemente che sia un background, una sorta di scenario, di palcoscenico sul quale noi camminiamo, ma in realtà è molto di più, non è un'entità come dicono molti, ma è sicuramente un qualcosa di vivo che ha comunque un suo percorso anche naturale e che questo percorso prescinde da noi e è indipendente, soprattutto totalmente indipendente da noi, se non per un fatto più pratico nel quale noi influiamo all'interno di questa realtà che si modifica diciamo molto più rapidamente di quanto alla fine dovrebbe. Questo è una cosa insomma sulla quale ovviamente si fa un gran discutere, anche se poi sempre molto poco alla fine, si fa un gran discutere solo in determinate finestre e poi dopo alla fine non fa niente perché ci sono le tasse, c'è il Covid e ci sono tutta un'altra serie di questioni. E il nostro pianeta è un pianeta che è soggetto alle leggi fisiche, naturali del cosmo e inevitabilmente ha tutto un suo percorso di vita, dalla nascita alla sua morte, che avverrà, comunque un giorno avverrà. E ci sono mutazioni geologiche importanti che alla fine comunque ne mutano anche lo status in qualche maniera. Proprio qualche giorno fa, il giorno in cui è successo l'evento di cui adesso parliamo, leggevo proprio un articolo che sostiene, ma questa è una cosa che si sostiene da tempo, ma che si raccolgono sempre più le prove che il fatto che Marte fosse un pianeta simile alla Terra, tutto sommato, e che quindi con condizioni che non si sa se erano più o meno abitabili, ma comunque era un pianeta molto più simile alla Terra. Variazioni, mutazioni geologiche, variazioni del campo magnetico, quello che vogliamo, insomma alla fine comunque hanno fatto sì che il pianeta diventasse quello che è oggi, questa roccia rossa insomma del tutto inospitale. E non è detto che questo non sia un destino che capiterà anche al nostro pianeta, chiaramente, che comunque, come abbiamo detto, cambierà, il suo nucleo si raffredderà e tutto sommato, alla fine, tutta una serie di situazioni avverranno in maniera tale che questo mondo non sarà poi più ospitale così come avrebbe potuto, come era o come è in questo momento. E questi fenomeni, questa particolarità ce lo ricordano, ce lo ricorda il mondo stesso, no? In qualche maniera la Terra stessa ogni tanto ce lo ricorda con eventi occasionali random che capitano e che sono di origine geologica per la maggior parte delle volte, quindi incidenti, disastri, catastrofi, eruzioni, esplosioni, terremoti, cose che comunque ci fanno ricordare che questo non è un palcoscenico che noi mettiamo su e disfacciamo quando ci vuole a noi, ma è semplicemente il posto che ci ospita in qualche maniera e nel quale noi per puri fattori di casualità siamo evoluti ad essere diventati quegli esseri intelligenti che dicono che siamo. Quando ero ragazzino io mi ricordo che a scuola ci insegnavano qual è la principale differenza dell'uomo dal resto delle creature viventi e si diceva con grande orgoglio che l'uomo è l'unica creatura vivente che muta l'ambiente a suo uso e consumo, e lo dicevamo con soddisfazione. Negli anni 70 questa cosa era una cosa figa, perché dice, vedi, siamo onnipotenti, siamo come dei piccoli siamo dei piccoli D che mutiamo praticamente il nostro mondo che ci sta intorno, così ad gazzum, perché siamo potenti, lo possiamo fare, ne abbiamo la facoltà, e questo alla fine chiaramente ha portato a delle conseguenze che erano già immaginabili ma per le quali probabilmente non c'era la sensibilità, perché vi ricordiamo insomma che ricordiamo negli anni 70, inizio anni 80 andavano di moda le pellicce di bisone, quindi insomma questo ci deve far capire insomma quanto questa cosa non fosse proprio all'ordine del giorno, diciamo, questo tipo di problema. Però questa razza così intelligente, così illuminata, alla fine comunque si ritrova di fronte a dei moniti che non sono, cioè non è il monito divino, quindi c'è un'intelligenza superiore che sta lì e ci ricorda. Però è un monito che noi dobbiamo interpretare come tale, anche se non intenzionalmente è tale, ma noi dobbiamo fare in modo che ci riporti insomma a una condizione di ragionamento diversa da quella che ovviamente facciamo tutti i giorni, e lo dobbiamo considerare come un monito, come un avviso disfratto ogni tanto che giustamente il mondo ci manda, perché chiaramente ogni 500 anni, ogni 1000 anni, ogni 250 anni in determinati punti del mondo succedono eventi che si sgrullano di dosso, insomma, tutta una serie di situazioni e che fanno parte ovviamente della conformazione geologica, della costante mutazione delle placche, della pressione del magma, di tutto quello che cazzo volete. E quindi, come abbiamo detto nella trasmissione di Michela, c'è questo vulcano sotterraneo, subacqueo, anzi, scusate, gioca come si chiama, Monga Tonga, insomma, vabbè, non fa niente, come si chiama, che ha fatto questo bel botto, ed è più impressionante vedere l'animazione dallo spazio quanto poi ovviamente sia comprensibile il fatto che questa cosa ovviamente è lontana da noi, non ci ha particolarmente colpito, no, perché c'è lontano. Però vi voglio fare sempre ricordare che Castel Gandolfo, l'Etna, il Vesuvio forse più, sono comunque potenzialmente dei supervulcani, insomma, cioè Castel Gandolfo, ragazzi, sta lì, buono, zitto, zitto, ma un giorno succederà, e quando succederà, senza considerare ovviamente il discorso della faglia di Sant'Andrea lì negli Stati Uniti, che insomma possono succedere, questa è la cosa importante che noi capiamo, è che possono succedere degli eventi geologicamente talmente rilevanti che possono insomma determinare anche la sorte di tutto il resto del pianeta, il quale poi andrà avanti comunque, altre specie viventi risorgeranno dalle ceneri di tutto questo e via dicendo. Ma la cosa che le due cose anzi che mi anzi le diverse cose diciamo che mi hanno fatto riflettere su questa cosa riguardano ovviamente la potenza del mondo, no? Del fatto che comunque appunto la Terra è in grado di scatenare forze che sono totalmente al di fuori del nostro controllo e soprattutto dalle quali noi non possiamo probabilmente difenderci. ma facendo un parallelismo anche alla potenza delle nostre armi, perché per quanto imponente e devastante sia stato questa eruzione e quindi le conseguenze geologiche, rappresenta il niente rispetto a quello che noi stessi possiamo scatenare contro noi stessi. Quindi tutti gli arsenali termonucleari che noi continuiamo ad avere, anche se poi ogni tanto qualche staterello simpatico, tipo che ne so, Cina, USA, URSS, no, URSS non esiste più, Russia, si incontrano e dicono: vabbè, dai, dismettiamo 5 testate nucleari a testa, dai, così, dai, dai, dai, dai. Mentre comunque, voglio dire, lo sviluppo delle armi nucleari continua, è sempre continuato, fino ad arrivare appunto alle famose armi termonucleari tattiche, no? Quelle che sì, sono armi termonucleari, ma creano una devastazione localizzata, che comunque possa creare meno, no, danni intorno. Però insomma, vabbè, questa cosa delle armi termonucleari è una cosa che ci deve far sempre riflettere, e vedo poi alla fine, al di là delle armi in sé, anche dal punto di vista energetico, che noi continuiamo ad avere sempre più esigenza, chiaramente, di energia, perché noi abbiamo bisogno di energia, dobbiamo continuare a scatenare sempre più energia, nonostante che le nostre tecnologie consumino tendenzialmente un quinto di quello che le tecnologie precedenti consumavano, a partire dalle lampadine, no? E invece no, noi abbiamo bisogno di energia, ma a maggior ragione in questa situazione anche geopolitica particolare c'è anche un discorso legato alle risorse, no? Cioè, nel senso, comunque noi abbiamo bisogno di costruire energia a prescindere dal petrolio, dal terrorismo, dalle bombe, le armi, le guerre e tutto quanto, no? Quindi insomma, alla fine c'è sempre un po' questo c'è tutto un po' tutto questo discorso. Però poi ci fa anche riflettere, un'ulteriore riflessione, poi metto il brano così leggo magari se avete scritto qualcosa, un'ulteriore riflessione ce la dobbiamo fare anche sul fatto che, nonostante oggi il mondo sia profondamente globalizzato, molto unificato, raggiungiamo insomma in tempi relativamente brevi determinate parti che fino a 30 anni fa sarebbero state comunque lontane, i disastri geologici ci fanno capire che ci sono ancora delle parti del mondo che sono remote e che tornano ad essere remote perché ovviamente diventano meno raggiungibili. C'è tutta quella grossa potenza tecnologica, quella istantaneità nella comunicazione che viene spezzata completamente, e c'è sempre il rischio che realtà che oggi in teoria ci sembra assurdo riescano a rimanere isolate proprio per colpa di eventi geologici o naturali o di qualsiasi altro genere. Quindi anche portare gli aiuti, cosa che a noi ci sembra che vabbè, è successo il terremoto, vabbè sti cazzi, dai, andiamogli a mandare 15-20 aerei con i pacchetti di roba da mangiare e stiamo a posto. E invece in realtà anche questa storia ci fa capire quanto è disgregante la società, no? Che poi è alle basi, cioè è disgregabile la società, cioè nel senso, e poi alle basi di tutti i film catastrofisti, no? Se voi ci pensate, perché tutti i film post-apocalittici su che cosa basano il principio, al di là zombie, non zombie, malattie, guerra nucleare, qualsiasi essa sia, no? Sul fatto che la prima cosa a spezzarsi, a distruggersi, è il potenziale mezzo per poter raggiungere determinati posti e la comunicazione in tempo reale, che è il modo per disgregare completamente la società e renderla praticamente isolata, poi fondamentalmente. E quindi da lì fino a che non ci saranno poi le risorse per poter ricostruire questa, anzi per poter eliminare questa disgregazione e quindi questo isolamento, insomma la situazione diventa un po' complicata. effettivamente la vaga impressione che sia un brano strumentale, non so se siete della stessa opinione. Comunque, vabbè, stavate a parlare un po' dei cazzi vostri, dei assets strumentali per le web radio, ovviamente DJ Ogre. Ricordiamo Revolve Radio, la nostra vicina di casa, come dice il buon Leo Varghion. Stavate parlando un po' dei cazzi vostri dal punto di vista tecnico, poi giustamente Walter ci ricorda che anche il Marsili, insomma in realtà in Italia ce ne sono pochi, ma ci sono potenzialmente distruttivi. E poi vabbè, insomma, avete continuato dicendo il fatto che ovviamente c'è un po' di problemi sull'interruzione. Allora ragazzi, ecco la cosa di cui mi sono dimenticato di dire durante l'introduzione, che Azuracast, che è il nostro sistema di gestione radio tramite server remoto su web, ha raggiunto un livello di affidabilità e di potenza veramente notevole. Devo dire, insomma, ci è voluto tanto, ha creato un sacco di problemi, ma nei vari aggiornamenti costanti era diventato fluido e soprattutto molto preciso. Ogni tanto fanno degli aggiornamenti radicali, diciamo, infatti sono cambiate anche delle cose sull'interfaccia, però quando ci sono questi aggiornamenti così importanti ci sono sempre delle conseguenze. Infatti i log di riproduzione sono tutti sballati, il player si aggiorna quando gli pare a loro, in questo caso ci sono problemi di stream, quindi saltella un po' lo stream, la mia voce, poi la sentirete in podcast se la cosa vi dovesse comunque in qualche maniera interessare. E questa cosa era successa anche precedentemente in un altro aggiornamento, di solito in un paio di giorni questa cosa si risolve. Comunque, essendo già un giorno e mezzo che è così, oggi aprirò un ticket, perché chiaramente sicuramente gli aggiornamenti di Azuracast, come quelli di WordPress per capirci, che sono dei software open source che stanno sul web e che noi utilizziamo ovviamente per fare le specifiche cose, spesso e volentieri si aggiornano in automatico e magari alcuni aggiornamenti hanno bisogno poi magari di una resettata, ecco, diciamo così. E noi abbiamo già provato a fare un reset abbastanza importante, insomma, diciamo totale, però probabilmente quello che possiamo fare noi da gestione non è la stessa cosa, insomma. Allora, e tornando invece un po' al discorso sul quello che è il nostro pianeta, appunto quello che, insomma, l'intenzione di quello che stavo dicendo era il fatto che comunque oltre alle mutazioni e alle azioni geologiche naturali del nostro pianeta, che i miliardi di anni probabilmente ne farà anche di peggio, ci siamo messi anche noi a modificare quelle che sono le condizioni, no? Gli equilibri all'interno del pianeta. E su uno degli elementi che probabilmente non si fa tanto leva, perché noi parliamo del riscaldamento e dell'inquinamento, però non si parla mai del fatto che io quando ero ragazzino eravamo 5 miliardi e adesso siamo 9 miliardi, cioè 9 miliardi di persone in grado di influire negativamente sul peso specifico che ha l'umanità nei confronti di questo pianeta, sono veramente un botto. 9 miliardi di persone sono veramente tante, non tanto per la quantità in sé, cioè non è che 9 miliardi di persone pesano e allora il mondo dice: oh, ammazza quanto pesate, ma perché il peso è più sostanziale, è dovuto a quello che comunque 9 miliardi di persone hanno bisogno per alimentarsi, per sostenersi e per sopravvivere. E 9 miliardi di persone probabilmente è un limite oltre il quale sicuramente andremo, ma che comincia a diventare in corrispondenza con tutte le altre cose, quindi riscaldamento, l'inquinamento e via dicendo, in corrispondenza, perché ovviamente la quantità di persone sono l'elemento importante di questa, sono probabilmente la causa. Però noi non lo diciamo, perché parlare di vite umane chiaramente impone anche un discorso morale, no? Da un certo punto di vista. Però il discorso morale, che è giusto, giustificato e assolutamente sostenibile, non ci deve però alla fine precludere la discussione, perché comunque bisogna ragionare sul fatto che spingere l'umanità a crescere demograficamente è un problema, è oggettivamente un problema, e farlo, quindi spingere le realtà, diciamo, a crescere demograficamente, a spesso e volentieri è anche un discorso ideologico, è un discorso religioso, che per me sono la stessa cosa poi fondamentalmente. Cioè, quindi per ideologia noi diciamo che le persone non devono utilizzare determinati ausili per impedire una sovrappopolazione, perché chiaramente Dio non vuole e si arrabbia, perché è sempre del solito discorso, c'è sempre sto Dio che sta là e si arrabbia, sta sempre lì incazzato sto Dio, no? Cioè non c'è una cosa, ah ma si incazza Dio, poi si incazza in gran casino. Poi giustamente noi non possiamo dire a una popolazione dei negretti di usare un preservativo, però poi possiamo anche festeggiare se affondano in mezzo al mare, giustamente perché cercano di andare verso un posto dove probabilmente c'è un po' più spazio di un altro posto dove stanno tutti stretti perché non si possono usare degli ausili per non fare i figli. Poi di questi 9 miliardi, chiaramente 1,5 miliardi stanno in India, e vabbè, probabilmente le situazioni più disagiate, più povere, più ingestibili. Io poi mi sono sempre domandato, no? Ma come si fa a gestire una nazione con 1,5 miliardi di persone? Al di là del fatto che probabilmente il 70% sarà al limite, no? Ai margini della società. Però io me lo domando sta cosa. Un altro 1,5 miliardi chiaramente sta in Cina, un paese del quale non si sa niente, poi ognuno dice la sua, vivono tutti nella povertà, invece vivono tutti bene, non sappiamo, perché in realtà entrare nell'entroterra cinese, fare il turista per andare a vedere quelle che sono le situazioni della provincia, dell'entroterra, delle campagne cinesi, è sempre tutto molto veicolato, no? Da quello che è il sistema, dal regime, che chiaramente non so, poi ovviamente una volta era così, poi magari oggi si può viaggia anche più liberamente. È che sicuramente, non vedendo praticamente mai, neanche su YouTube, persone che viaggiano e fanno, che ne so, un tour della Cina rurale, mi viene da pensare il fatto che probabilmente ancora oggi, insomma, sia abbastanza complicato, no? Inserirsi all'interno di quel contesto, mentre invece di tantissimi altri posti del mondo questa cosa è fattibile. Però ecco, diciamo che molto del problema della sovrappopolazione viene, no, dalle realtà più povere, poi alla fine, no, al di fuori di noi. Perché se noi ci pensiamo, cioè 9 miliardi di persone, ragioniamo un attimo, cioè in Europa siamo 350 milioni, in America sono altri di 300 milioni, e cioè nel senso le due realtà più... rappresentative in questo momento, probabilmente insomma anche più importanti dal punto di vista geopolitico, non arrivano al 1,000,000,000 di persone. Parliamo di questo, insomma, no? Poi magari vai in Brasile e ci stanno vabbè, ci sta la gente accarcata, oppure altre realtà dove ci stanno ragazzini sotto le fogne o chissà che cosa, insomma. Quindi cioè, in realtà il problema della sovrappopolazione non è solo un problema ideologico e religioso, è un problema anche di gestione, ma anche etico, perché comunque alla fine spingere le popolazioni a creare sovrappopolazione significa creare ulteriore povertà, ulteriori malattie, ulteriore disagio, ulteriori bambini abbandonati, ulteriori bambini alla deriva che fanno poi cose che ovviamente per sopravvivere fanno cose che noi oggi giudichiamo dall'alto, però che brutta questa cosa, ma siamo noi che ce li spingiamo. Cioè è questa nostra società occidentale così bulimica, così vogliosa di produrre cose che alla fine in qualche maniera, dai, fate figli, perché sennò Dio si incazza. Poi tra l'altro sono due discorsi che sembrano scollegati, ma in realtà secondo me c'hanno una connessione, cioè alla fine, no? E questa è una cosa sulla quale bisogna parlare, perché non è che non se ne parli agli alti livelli, no? Nel senso, si fa un discorso di ma come possiamo affrontare questo problema della sovrappopolazione? Perché qui prima o poi dovremo porci il problema del fatto che questo aumento demografico va interrotto, sicuramente, ma che va, bisogna anche creare un rientro da un certo punto di vista. E certo, non è che possiamo andare a ammazzare ovviamente le persone, però maggiore quantità di popolazione significa maggiore richiesta di risorse, significa maggiore potenzialità di malattie, significa maggiore potenzialità di guerre. Questo è un dato di fatto, è un dato oggettivo. Cioè, e chiaramente questo è un problema sul quale prima o poi bisognerà, perché non è solo la lampadina. Cioè, non era solo Greta Thunberg che c'ha la lampadina a basso consumo dentro la stanza, una sola, che a malapena ci si vede, che questo qua salverà il mondo, chiaramente. E fa bene, e io la stimo, e la sostengo, e la sosterrò sempre. Ma il problema è proprio più globale. Cioè, qui il problema è più globale. E ci sono due problematiche fondamentali. E una di queste, chiaramente, è questa questione della sovrappopolazione, che insomma non può essere assolutamente sottovalutata. Giustamente Francesco fa un'osservazione, anche qui purtroppo siamo sempre poco informati, no? Aspettate, siamo sempre poco informati perché poi o leggiamo poco oppure perché i nostri organi di informazione sono più concentrati su determinate notizie piuttosto che sul resto. Lui giustamente dice il Covid in India gli ha dato una bella piallata, ma è proprio questo il problema, perché chiaramente la sovrappopolazione nelle realtà più disagiate, e che anche se non lo fossero lo diventano, perché chiaramente la sovrappopolazione crea comunque uno spaccamento proprio dal punto di vista della gestione economica anche della nazione, oltre al fatto che diventa ingestibile dal punto di vista strettamente legislativo, e chiaramente sono le realtà che si ammalano più velocemente e dove le conseguenze sono assolutamente più devastanti. Perché una cosa è offrire assistenza a 1.000 persone, una cosa è offrire assistenza a 100 milioni di persone, e quindi probabilmente non esistono neanche le risorse sufficienti, no? per poter fare questa cosa. E questo tra l'altro secondo me aggiunge un ulteriore elemento a quello che ho detto prima sul discorso della sovrappopolazione, che è relativo al fatto che chiaramente non esistendo risorse per salvare tutti, perché questa è la verità, diciamolo, noi prendiamo queste realtà, queste situazioni e le mettiamo sotto al tappeto. Cioè, nel senso, non andiamo a guardare nel luogo dove ovviamente ci viene ricordato inevitabilmente che non esistono risorse per salvare tutti. E siccome che comunque lavorare in favore della salvezza dell'umanità nei confronti della povertà, della fame, delle pandemie e di tutto quello che è annesso e connesso significa fare delle scelte morali, perché è inevitabile che sia così, non perché uno vuole, cioè non c'è una volontà su questo, ma è inevitabile perché non esistono risorse per tutti e non potranno mai esistere risorse per tutti, per 9 miliardi di persone non possono esistere 9 miliardi di posti letto in terapia intensiva, per capirci proprio, adesso l'ho fatta molto semplificata, no? E chiaramente bisogna fare delle scelte morali, e il modo più semplice per fare queste scelte morali, che diventano delle scelte implicite che noi stessi facciamo anche se inconsapevolmente, perché ovviamente facciamo parte di questo meccanismo che prende una decisione per noi e noi siamo parte integrante di questa decisione, è semplicemente il modo più semplice: non sai e non ti poni il problema, nel senso non stai lì a dire ah cazzarola che brutta cosa, abbiamo fatto questa scelta morale, convivremo per tutto il resto della nostra vita con questa becera scelta di aver fatto di aver scelto Tizio piuttosto che Caio, di aver scelto di salvare 10.000 europei piuttosto che 5 milioni di indiani, perché poi è anche un po' questo insomma il discorso. E questo vale ovviamente per tutte le popolazioni centroafricane, le popolazioni insomma più lontane dalla civiltà, no? Quelle popolazioni che da una parte diciamo rispettiamo nel loro percorso evolutivo, no? Nel senso, quindi tutta l'Africa tribale, no? Che noi diciamo quelli devono continuare a rimanere così perché quella è la loro esistenza. Dall'altra parte a noi ci fa comodo, perché chiaramente scusate, tra l'altro tra un po' diventiamo radio Covid, qua, perché insomma visto tutti intorno a noi stanno cadendo, praticamente cadendo nel senso più buono del termine. Ma tra l'altro 9 miliardi di persone, è vero che quelli che sfruttano un certo tipo di sovrapproduzione delle risorse, dei beni, dei beni alimentari, chiaramente sono quelli più ricchi, no? Quindi quelli quel quasi miliardo di persone che comunque vivono in uno status di benessere, no? Perché noi parliamo di povertà in Italia, ma cioè anche il povero da noi vive in una condizione di status di benessere rispetto a quella parte del mondo dove anche neanche quella povertà c'hanno, cioè, quindi ovviamente questa è una cosa da tenere in considerazione. Quindi questa sovrapproduzione di beni che chiaramente è diciamo ad appannaggio di quella piccola percentuale di popolazione che comunque se lo può permettere, è comunque voglio dire diciamo che subisce comunque l'influenza della sovrappopolazione globale, perché comunque anche in Europa, cioè noi andiamo a vedere, anzi siamo 350 milioni, sono un sacco di persone, raga. Sono un sacco di persone, sfama 350 milioni di persone. Compra, produci materiale per fare colazione, pranzo e cena, perché poi noi giustamente non è che dice oh vabbè ma là famo un pasto al giorno e più che ne so uno spuntino, no, noi dobbiamo fare colazione, pranzo e cena, quindi questa è una cosa da tenere in considerazione, e quindi produrre ovviamente risorse, qui poi vengo anche al discorso dei vegani, perché poi dice produrre risorse per poter far mangiare tutta sta popolazione significa creare ipersfruttamento delle risorse naturali oppure condizioni di produzione becere, brutali o comunque assolutamente cieche da un certo punto di vista. Ma se noi fossimo, e quindi questo può anche valere per il discorso della carne, ma noi se fossimo tutti vegani e mangiassimo solo erba, il problema sarebbe lo stesso. Cioè non è che dici vabbè fai una sovrapproduzione di erba e non fai male a degli animali. Sì, posso essere anche potenzialmente d'accordo, però il problema qui non è soltanto il far del male agli animali, qui il problema è succhiare dal midollo del nostro mondo risorse che sono necessarie per farci stare in piedi. quando questo mondo queste risorse non ce le ha, e prima o poi questa cosa dovremo farci i conti, ok? Non è soltanto il petrolio che finisce, che sti cazzi, stiamo fortunatamente sviluppando tecnologie che ci permetteranno un giorno di essere liberi da questa cosa del petrolio. Già oggi potrebbe essere così, però non si può fare, perché se no poi dopo su Addabi, Babibi, sultano de sta minchia, giustamente si offende e non può comprarci le, no, le macchine con le ruote d'oro e il volante di platino. Quindi come facciamo? Non si può fare, no? Giustamente. Poi ritorniamo, un giorno faremo una puntata tutta su Dubai, ragazzi, perché a me tutti quelli che sono andato a Dubai, che figata, dovete morire. Non è che vi dovete sentire, ma dovete morire, perché è sempre il solito discorso di mettere la roba sotto al tappeto. Voi fate finta di non sapere e quindi andate a godere quello che pensate di meritarvi in quanto borghesi del mondo, no? Cioè quella parte fortunata del mondo. Noi siamo nati qui, quindi noi siamo. E quindi andiamo. Non ci frega un cazzo. Se, come tutti quelli che vanno in Thailandia, ovviamente, a trombarsi i ragazzini, è la stessa cosa, Quindi dovete morire tutti. Mi spiace, ce l'ho con voi in particolare. Comunque, torniamo un attimo al discorso. Che alla fine questa grossa. Vedete, c'è stato, al di là dell'aspetto alimentare, a questo punto transitiamo sul discorso energetico, no? Scusate, ma parlare tutto questo tempo la mattina è veramente impegnativo. E c'è stata una grandissima polemica, no, sul periodo di Trump come presidente degli Stati Uniti, perché giustamente lui ha ridato vita a delle industrie che fanno parte delle sue lobby, sono quelli che li finanziano, quindi è normale, perché la politica funziona così, non è... ci dobbiamo aspettare tanto il contrario, soprattutto quando si parla di persone che non c'hanno scrupoli, che non gliene frega un cazzo, cioè non è che c'hanno una sensibilità veramente, la sensibilità che c'hanno sono i soldi e gliene frega un cazzo, capito? Se aprire, riprodurre carbone e immettere carbone ovviamente nell'atmosfera crea ulteriori problemi, no? Crea ulteriori danni, crea ulteriori squilibri dal punto di vista della temperatura, dell'effetto serra, non ce ne frega un cazzo. Però quello che io dico sempre è che questi tre ricchi i miliardari che sfruttano le risorse del mondo per il loro interesse personale, per la propria ricchezza dalla quale non riescono a distaccarsi, perché dicevo, non è che a un certo punto dici sono abbastanza ricco, non me li spenderanno neanche 10 generazioni dei miei figli tutti questi soldi, no, è proprio una questione de bisogno psicopatico, no? Ma quando succederanno gli eventi che succederanno, la tua ricchezza non ti serverà. Potrai prolungare la tua vita, potrai costruirti un bunker in grado di alimentarti per 20 anni, potrai fare quello che ti pare, ma non sopravviverai a questo, perché nessuno può sopravvivere a un'estinzione. Nessuno può sopravvivere a una mutazione geologica e atmosferica tale da creare un'estinzione di massa. Nel nostro pianeta di estinzione di massa ce ne sono state diverse, non è che il mondo va avanti uguale, non gliene frega un cazzo dei tuoi soldi, e tu potrai salvarti per un po' di tempo, ma quanto pensi di poterti salvare se non hai poi le risorse per poter sopravvivere, se non hai un'aria da respirare, se non hai i ricambi per poter riparare il tuo posto, insomma. Ecco, questo secondo me è un punto abbastanza delicato. indosso occhiali da sole per alterare la luce che c'è sulla pelle. Un poco di trucco a parlare per noi che abbiamo sempre paura e preferiamo nasconderci, se non per pochi momenti, un giorno in cui siamo eroi. Nasce un arcobaleno e tocca a noi farlo uscire dalla, e se gli sguardi sono senza filtri ti accorgi che comunque sia io sono qui, che butto fuori quel che ho. Sia noi siamo qui a ridere di gusto. Sono delle persone strane che a prima botta ti sembra che ti stiano addosso perché sei speciale, ed invece è frutto della diplomazia, semplicemente falsità. Le delusioni che fanno più male sono quelle che nel trucco, forse per questo che sta lì, risparmia la faccia che comunque sia io sono qui e butto fuori quel che ho. Ah, questi sono gli Harem con Pelle Viva, mai sentiti, non so se li conoscete, mai sentiti proprio, cioè, mai coperti, dovrebbero essere nel nostro archivio di Creative Commons, se invece so qualcos'altro ditemelo perché proprio non ne so assolutamente niente. E ridendo e scherzando, si sono fatte le 7.54, il che è anche meglio per la mia povera voce, e quindi arrivo, eh. Allora, dicevamo che, insomma, Francesco fa presente un aspetto che non affronto adesso perché chiaramente vado in chiusura, ma che sarà un argomento anche quello di una puntata di Buongiorno un cazzo, perché è corretto quello che dice, ed era intenzione mia poi alla fine anche affrontarlo. Volevo semplicemente fare una puntata molto generica sul fatto che comunque far finta che il nostro mondo non sia un problema e farlo fare finta quotidianamente che questa cosa sia così, in realtà è una stronzata, ragazzi, perché questo è un problema che dovremmo discutere, affrontare e dedicargli un pensiero ogni giorno almeno un po', e cercare di modificare poi quello che sono le nostre abitudini, i nostri comportamenti, in funzione del fatto che comunque un cambiamento deve essere assolutamente fatto. Detto questo, ragazzi, detto questo, io direi che eccoci qua, ragazzi, ce ne andiamo forse qualche minuto prima, però ho visto che i problemi di Azzurracast continuano a persistere, quindi vi comunico da adesso che fino alle 18.30 tutte le trasmissioni di Runtime Radio saranno interrotte. sentirete probabilmente la musica a rotazione random, e cercherò di affrontare, di dedicarmi a questa questione per cercare di risolverla. Se dopo se alle 18.30 tutti i problemi saranno stati risolti, chiaramente riceverete accurate comunicazioni su tutti i nostri canali, e vedremo poi ovviamente quello che saranno le live. Ovviamente alle 8, vi ricordo, dalle 8 alle 8.30 circa, c'è Walter Sbano con le orazioni della sera, e questa sera alle ore 21.30 ci dovrebbe essere ovviamente Quando eravamo futuro, con una puntata tutta dedicata alla musica da trasporto, diciamo così, degli anni 70 e 80, che sono stati gli anni delle grandi rivoluzioni, che hanno dato il via insomma a determinate cose veramente importanti. Domattina torna Leo Varghion con il suo Il Mattino Loro in podcast, domani sera alle 23 dovrebbe tornare anche Runtime by Night, e sabato mattina alle 8.30, 9.30 io e Michela con Disordinati Informati in crossover insieme a me, dove chiacchiereremo di non so che cosa, quindi poi assolutamente lo vedremo. Io approfitto per ringraziare tutti per la vostra partecipazione, le chiacchiere in chat, ma soprattutto vi ricordo di andare su runtimeradio.it, dove poter ovviamente anche contribuire al nostro progetto tramite il pulsante Anche Io, e fare una donazione ricorrente su Patreon, oppure fare una donazione una tantum su PayPal, ma potete anche non farlo, perché sapete insomma che noi andremo avanti lo stesso, ma aiutare Runtime Radio è anche una cosa carina per poter sostenere appunto il nostro progetto. Detto questo, io vi do la buona giornata, buongiorno un cazzo a tutti, è ora di iniziare seriamente quello che dobbiamo fare oggi, e mi raccomando, state sempre in gamba e alla via così.